Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, per chi volesse approfondire temi di mafia e di economia criminale, vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con un qualunque motore di ricerca e anche sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, la seconda informazione è invece quella che riguarda la nostra mail, sottotiro@radio24.it. Continuate a segnalarci storie interessanti di chi si oppone e resiste alla mafia, storie di imprenditori, di commercianti, artigiani, cittadini comuni, associazioni, scuole, tutto quanto fa fronte, resistenza e muro contro la pervasività delle mafie in tutto il territorio nazionale. Mi aspetto anche storie dal nord, perché lo sapete, il mio pallino fisso, il nord è ormai un terreno, diciamo così, un laboratorio straordinario per la penetrazione di tutte le mafie italiane e non solo. Storie come quella che raccontiamo oggi. Credo che la maggior parte di voi avrà sentito parlare ormai da anni di Addio Pizzo, un'associazione che a Palermo nasce, a Palermo e da Palermo, e che con una serie di iniziative collaterali cerca di portare, diciamo così, il verbo della legalità contro il verbo della morte della mafia di Cosa Nostra. Tra le tante iniziative interessanti c'è quella che oggi descriviamo, quella di Addio Pizzo Travel, in buona sostanza, vale a dire un'agenzia per vacanze antimafia. Mi sembra una cosa molto interessante, degna di essere conosciuta. Buongiorno Dario Riccobono. Buongiorno, buongiorno. Allora, Dario Riccobono è l'ideatore del progetto ed è stato uno dei fondatori dell'associazione Addio Pizzo. Allora, descrivici questa iniziativa. Ma guarda, non si tratta di nient'altro che l'applicazione al settore turistico di quella che è la campagna di consumo critico anti-racket che diciamo da anni Addio Pizzo porta avanti a Palermo. Ci è stato un po' chiesto da gente non siciliana cosa possiamo fare noi da quassù o dove ci consigliate di andare quando veniamo in Sicilia. Ebbene, noi a questo punto abbiamo deciso di organizzare dei tour per permettere ai turisti di innanzitutto avere la consapevolezza di non finanziare la mafia nemmeno indirettamente, perché tutti i nostri fornitori sono Pizzo Free, quindi da ristoranti, alberghi, compagnie di trasporti, tutti hanno fatto una scelta precisa, si sono opposti alla mafia. E poi la seconda caratteristica, diciamo, peculiare della nostra offerta è data dal fatto di conoscere una Sicilia attraverso una prospettiva, da un'ottica un po' diversa, quindi certo, conoscere le bellezze della nostra terra, ma anche conoscere la bellezza, diciamo, a 360 gradi, quella delle persone, dei siciliani che hanno una storia di resistenza assolutamente da raccontare. Allora Dario, poniamo che io sia un imprenditore del nord, un cittadino del nord, uno scolaro del nord, un professore del nord, del centro o anche del resto del sud Italia, e decida di fare questo viaggio. Mi intriga quello che tu stai dicendo e penso, benissimo, quest'estate oppure anche prima, parto con la mia famiglia e vado a visitare questa Sicilia che in tutte le tessere di questo puzzle che mi sta raccontando Dario Riccobono si oppongono alla mafia. Quindi io non soltanto faccio coscienza civile, ma addirittura creo e contribuisco a creare un'economia pulita. Questo è fondamentale. Cosa faccio? Dove vado? Un sito internet? Un numero di telefono? Diamo delle indicazioni. Il nostro principale mezzo di comunicazione è appunto internet, quindi il nostro sito che è www.addiopizzotravel.it. E lì c'è anche la nostra email, tutti i nostri contatti telefonici. Oh, fantastico. Ci può fare un'idea del tour appunto che proponiamo, ma si può bene, anche bene. Da singoli. Allora, addiopizzotravel.it. Dove mi porti, Dario, se io ti scrivo? Noi possiamo organizzare dei tour soprattutto, diciamo, nella provincia di Palermo, che è la zona appunto in cui siamo più forti, e per esempio una giornata prevede la visita di Cinisi e conoscere appunto la realtà di Peppino Impastato direttamente dal racconto dei familiari, per poi cenare nella pizzeria di famiglia, quella resa nota dal film I Cento Passi, e quindi fare consumo critico direttamente passando da Capaci, dove è un luogo dove sono nato, tristemente noto, un posto bellissimo sul mare, ma è che pensiamo debba essere conosciuto anche per questa bellezza e perché è anche il simbolo di rinascita. Andiamo a partinico per provare l'esperienza di conduzione di un TG particolare, quello di Teleiato. Certo, certo, certo. È bellissimo, bello, bello, primo bello. Piano. E poi a Corleone, per esempio, un'ultima citazione, quindi quella di l'esperienza di mangiare in una terra appartenuta ai mafiosi, mangiare in un agriturismo sorto su un bene confiscato. Bello, bello, mafia. mi piace, sono zone che conosco benissimo, sono tornato da Corleone la scorsa settimana e quindi so di cosa stiamo parlando, ho visitato anche anni e anni fa le terre sottratte alle cosche, ai corleonesi, alla famiglia Riina e quant'altro, quindi bellissimo questo tour, mi intriga. Ma quanto mi costa? Siete cari? No, cerchiamo di essere, di stare sul mercato, soprattutto in questo momento di crisi, diciamo ci sono molte variabili, il target predefinito, diciamo se si tratta di studenti riusciamo a fare dei prezzi molto competitivi. Ecco, questo mi piace. Dalla stagione, dalla scelta dell'albergo, perché offriamo anche, diciamo, non si deve pensare a un tour responsabile che faccia rima con scomodità. Noi certo. Abbiamo anche dei bei alberghi 4 stelle e quest'estate abbiamo organizzato proprio dei tour per gente che voleva anche divertirsi, anche vedere la Sicilia, le bellezze storico-artistiche, ma senza lasciare a casa il cervello. Assolutamente, ecco, poi la Sicilia è una terra splendida che io personalmente amo in maniera viscerale. Allora, io rilancio l'appello di Dario Riccobono, lo dico alle scuole, perché come diceva Gesualdo Bufalino, la mafia si sconfigge con un esercito di insegnanti, me l'avete sentita dire questa frase migliaia di volte. Le scuole del nord, apriamo gli occhi, coscienza civica. Creiamo gli anticorpi al nord, e per creare gli anticorpi bisogna prendere esempio da chi la mafia la conosce, ahimè, e ad essa si oppone. Quindi visitiamo questo sito addiopizzotravel.it e facciamo queste splendide vacanze in una terra meravigliosa come la Sicilia, nei luoghi di chi si è opposto con i fatti e non a chiacchiere contro Cosa Nostra. Un'ultima domanda, Dario, gli affari vanno bene? Sì, siamo molto contenti, abbiamo meno di un anno di vita e già tantissime richieste, tantissimi contatti. Bene. Siamo veramente felici. Bene, bene, bene, viva la Sicilia che produce ricchezza in maniera pulita. Grazie a Dario Riccobono. Grazie a te, ti aspettiamo in Sicilia, visto che sei un amante, sarai ospite nei nostri tour. A pagamento, ospite a pagamento, ci tengo a sottolinearlo, sempre e comunque a pagamento. Grazie Dario, grazie a Peter Bescapè in regia e a Laura Faggin in redazione. Roberto Calullo vi auguro una buona giornata.